La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24. Sono le 16:31 primi e 46 secondi. In diretta agli studi di Milano, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. In diretta in podcast, vi ricorda l'indirizzo della trasmissione per proporre temi, opinioni o proporvi con una vostra storia per la trasmissione. La versione di Oscar @24.it per intervenire oggi, come sempre, in diretta 800 24 00 24 per le opinioni 349 238 6666. Prima di spiegarvi l'argomento della trasmissione, oggi parleremo di un tema che diventa ancora più delicato dopo l'elezione di Trump, perché riguarda le regole del commercio internazionale e in particolare una scadenza molto vicina a cui l'Unione Europea, ma questo è il mio giudizio, si è impiccata da sola, vedremo, unica delle macro aree mondiali, per la concessione o meno alla Cina, gigante mondiale come è evidente, della clausola di economia di mercato, cioè riconoscere che è un'economia di mercato la Cina. Vedremo che conseguenze ha, vedremo se davvero e perché ha senso questa scadenza del 16 dicembre, vedremo che problemi questo comporta per le imprese italiane. È ancora più incandescente il tema perché, come sapete, tra i tanti temi discriminanti che il presidente eletto negli Stati Uniti Trump ha posto nella sua campagna elettorale, c'è esattamente la ridiscussione delle norme e degli accordi con i 5 paesi in cui la bilancia commerciale degli Stati Uniti è più esposta, in primis la Cina, Messico, Giappone, Taiwan, Corea del Sud. Difficile immaginare che questo comporti la rottura di rapporti o dazi unilaterali, no, ma il problema è che Trump non crede agli accordi multilaterali, cioè esattamente quelli che hanno costituito l'architrave delle trattative in tutti questi anni. Il trattato transpacifico tra Unione Europea e Stati Uniti, che sapete è rimasto indietro ed è difficile a questo punto che venga approvato. Quello transpacifico invece ha fatto molto più passi avanti. Ecco, Trump crede nel rapporto diretto tra Stati Uniti e Cina e nella ridefinizione di questi rapporti, così lasciando poi le altre aree capaci di regolare secondo rapporti di potenza e rapporti reciproci. Quindi l'Unione Europea in questo nuovo quadro a me appare più debole di prima, e a quel punto sarebbe meglio evitare errori. Prima però di presentarvi l'ospite e di dirvi qualche altra parola per spiegarvi la scadenza, che oramai è imminente visto che oggi siamo al 14 novembre, manca solo un mese, lasciatemi dire una cosa che è una comunicazione di servizio, perché nel frattempo, in queste ore, i giornalisti, quindi i CDR e i giornalisti del Sole 24 Ore, hanno dichiarato una prima giornata di sciopero oggi, quindi domani il Sole 24 Ore non è in edicola. Domani scioperano i giornalisti di Radio Cor, dell'agenzia del gruppo Sole 24 Ore, e domani scioperano anche i giornalisti di Radio 24, quindi tutte le trasmissioni e i giornali radio a cura della redazione giornalistica e dei colleghi giornalisti di Radio 24 domani non vanno in onda. Io preciso subito che, poiché ho un rapporto contrattuale diverso, sono un collaboratore professionale esterno a tempo, nel mio set di diritti non c'è il diritto di sciopero, quindi sarò comunque in onda alle 8:20 di domani con Attenti Noi Due, non ci sarà all'Inomina la mattina per la rassegna per Parlamento, non ci saranno altre trasmissioni. I conduttori invece, con contratti professionali e non di lavoro subordinato, saranno al loro posto, ma io fin d'ora vi dico che condivido le ragioni serie e gravi dei colleghi e che hanno portato tutti i colleghi a proclamare lo sciopero oggi per il giornale, domani per Radio 24 e per il gruppo e per i giornalisti dell'agenzia Radio Cor, scusatemi, perché la questione del Sole è molto seria e perché affrontarla solo d'amblè con misure sui costi, li vedremo, se sarà necessario ok, però il problema è che parlare solo di questo, a giudizio di chi in questi anni ha tenuto alta la credibilità professionale del Sole, è una cosa inaccettabile. Queste sono le ragioni e mi sembra giusto informarvene. Ripeto, allora andiamo alla cosa di cui parliamo oggi. Qual è la posizione retrostante? Quella che ha indotto il Presidente della Commissione Europea Juncker ancora la settimana scorsa a dire: la concessione di status di economia di mercato alla Cina è una cosa automatica, perché dovete sapere che nel Trattato dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, articolo 15, si prescrive in termini generali che a 15 anni dall'ingresso nell'OMC, esattamente 15 anni fa, la Cina entrava per grande pressione americana. Ricordo tutti che la Cina è il primo detentore di debito pubblico sovrano e corporate americano, quindi insomma c'era un certo interesse americano a farla entrare abbastanza in fretta nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. commercio c'è questa norma generale che dice dopo 15 anni si pone il tema del riconoscimento della qualifica di economia di mercato a chi entra. Che cosa significa concretamente? Significa concretamente che mentre fino a quest'oggi la disciplina del commercio con la Cina in ambito OMC e quindi come Unione Europea OMC ricadeva nell'adozione di strumenti per definire i prezzi e i costi fair, equi, perché questa è la base di un equo commercio per chi vuole i mercati come me, non ognuno col costo più basso a prescindere da come lo realizza. Ecco, all'interno della cornice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, in tutta la prima fase e per i primi anni in cui i paesi entrano, si consente, mi sembra sacrosanto, che a quel punto i prezzi e i costi praticati debbano essere sottoposti a una verifica per evitare il dumping, in cui si utilizza una metodologia con benchmark di prezzi e costi terzi di riferimento e non quelli dichiarati in questo caso dalla Cina. Questa cosa salta automaticamente se gli si dà lo status di economia di mercato, punto numero uno. A quel punto, punto numero due, spetta eventualmente all'Unione Europea eventualmente tentare di dimostrare che questo o quel prodotto o questo o quel servizio offerto dai cinesi è realizzato con prezzi dumping, cioè per esempio con sovvenzioni pubbliche massicce, con ricorso a un credito pubblico non a condizioni di mercato, eccetera eccetera, invece che come avveniva fino a oggi la Cina che deve dimostrare il contrario. Come è ovvio, questa concessione quindi apre una prospettiva molto, tra virgolette, più aperta rispetto a un mercato nel quale la Commissione Europea, ancora stamattina, la Commissione Europea sulle agenzie, ha dovuto prendere la decisione di un dazio preventivo, ancora una volta, su un prodotto che riguarda l'acciaio e il ferro, sulle tubature non saldate di acciaio e di ferro, e ha proposto l'adozione appunto di un dazio preventivo per i prodotti che vengono dalla Cina in questo, in quanto in questo caso la Commissione, esaminati i dati, dice il vostro è un prezzo da dumping. Tenete conto che sono ben 17 negli ultimi due anni le misure di dazio adottate dalla Commissione Europea che ricadono quasi sempre nell'acciaio a questo tipo, a un'offerta variegata ma di prodotti cinesi. Sono 52 attualmente le misure di produzione di dazi che abbiamo come Unione Europea sull'import cinese, poco meno del 2% dell'import, ma come vedete il problema è ancora aperto. Finisco questa introduzione dicendo che il Presidente della Commissione Europea Juncker ha stupito tutti la settimana scorsa dicendo ma questa è un'adozione automatica. Per essere chiari, i tedeschi sono per l'interpretazione dell'adozione automatica, perché i tedeschi sono in posizione di forza all'import-export con la Cina e un po' ragionano come l'America. Ce la vediamo direttamente noi con la Cina, altri paesi europei, vedetevela un po' da soli se siete deboli in qualche settore del mercato. Questa pressione tedesca è stata evidente in tutto l'anno, che dà torto però a Juncker, perché se fosse vero che la concessione della clausola di economia di mercato è automatica, non si spiegherebbe perché la Commissione si è riunita ben 3 volte su questo tema, ha aperto una consultazione pubblica a cui hanno partecipato tutti i sindacati, tutte le imprese, tutte le filiere europee, se fosse automatico non ci sarebbe stato bisogno di questo, ha votato il Parlamento Europeo a maggio e non è stato per l'automaticità, ma ha posto tutta una serie di questioni. E queste questioni, ho concluso l'introduzione, ma per farvi capire di cosa parliamo, riguardano il fatto che prima della concessione della clausola dell'economia di mercato non c'è nessun pregiudizio ostile, ma prima di questo bisogna definire un meccanismo bilaterale sia per come valutare i costi e i prezzi cinesi con una metodologia indipendente, primo. Secondo, bisogna definire un quadro di misure di tutela, si chiamano TDIs in gergo tecnico, da attivare in presenza di violazioni reciproche, e quindi in assenza di questo accordo altrimenti partirebbe una guerra dei dazi che non è nell'interesse di nessuno, perché verrebbero considerate, una volta che gli diamo economia di mercato, delle azioni azzardate e predatorie da parte nostra. Invece bisogna definire questo secondo quadro, e c'è anche un terzo quadro, questo riguarda solo l'acciaio, che riguarda l'overcapacità produttiva installata in Cina, e lì bisogna aprire un tavolo bilaterale per capire come, se e quando davvero loro affrontano questa partita che riguarda centinaia di milioni di tonnellate, per essere chiari. Tenete conto, Cina significa significa 800 milioni di tonnellate l'anno scorso prodotte di acciaio. La faccio finita qui, ma come vedete è una roba che riguarda intere filiere della produzione italiana, decine e decine di migliaia di posti di lavoro. Non è, perché io non sono un daziario sovranista, non è una questione di sovranismo contro il libero commercio, è una questione di presupposti, di regole chiare per impedire che chi ha lo Stato dietro o chi non ha sindacati, costi sociali eccetera eccetera, possa diventare a quel punto il vincitore fuori dalle regole di una competizione che a quel punto non è di mercato. Questa è la mia opinione. Però per vedere che cosa ci aspetta, perché nel frattempo c'è stata proprio due giorni fa una bozza di regolamento che è venuta dalla Commissione Europea, se davvero, quindi tra l'altro siamo l'unica macroarea mondiale a aver dato questa interpretazione del 16 di dicembre, l'America non ci pensa proprio, il Brasile non ci pensa proprio, il Messico non ci pensa proprio, quindi io capisco i cinesi, però capisco che come europeo e come italiano, come uno che vuole difendere, non a prescindere, ma in condizioni fair, equi, il lavoro e l'impresa italiana, non è che posso fottermela del fatto che gli americani, i brasiliani, i messicani, indonesi eccetera non ci pensano proprio. Allora, con chi ne parliamo? Con il vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, Licia Mattioli, che ringrazio di essersi resa disponibile ai nostri microfoni. Ma davvero scatta questa automaticità il 16 dicembre, cara Mattioli? Siamo un po' preoccupati di questo, perché per fortuna ancora non è definitivamente deciso, nel senso che stanno ancora discutendo in Commissione in Europa, però di fatto sembrerebbe, come dire, la strada in arrivo a quell'obiettivo, che per l'Italia vuol dire, lei parlava di acciaio, ma io non parlerei solo di acciaio, certo, perché come diceva le nostre filiere sono tantissime, penso anche a ceramica, carta, calzature, chimica, biciclette, plastica, bulloni. C'è veramente una serie di filiere che mettono in ginocchio il paese. Peraltro lei parlava di posti di lavoro. Io le do un numero, 200.000 posti di lavoro in Europa, ma posto che noi siamo il secondo paese manifatturiero, molti sono in Italia, moltissimi di questi. Quindi è un disastro. Aggiungerei anche un altro fatto, Giannino, che lei sollevava prima e sottolineerei, cioè il fatto che gli altri paesi se la giocano in maniera diretta. E la prima cosa che hanno detto in America, Trump insegna, lui cosa ha detto? Ha detto che lui con la Cina probabilmente metterà dei super dazi per evitare il dumping. Quindi in realtà noi ci troviamo in un'Unione Europea che sta aprendo le porte col tappeto rosso, inopinatamente, e gli altri bloccano sempre di più. Ma perché la Juncker, malgrado la consultazione, il voto del Parlamento Europeo, eccetera, eccetera, secondo lei pochi giorni fa ha detto è una cosa automatica? Io credo che sia un problema di non inimicarsi, nel mio immaginario, cioè la posizione di non inimicarsi la Cina, no? Di avere paura di non riconoscere questo status di mercato a cui loro tengono molto. Ma questa è l'ennesima posizione di un'Europa che non tutela gli europei, non tutela gli interessi degli europei, mettendo in grandissima difficoltà le industrie che ci sono in Europa. Questa secondo me è la mia lettura, perché non ne capisco un'altra. Lui stesso dice, come diceva giustamente lei prima, ma non sono un'economia di mercato, e allora di cosa stiamo parlando? Giochiamo in due modi diversi, non esiste, no? Ma secondo, voglio dire, capisco adesso i rapporti diplomatici con la Confindustria tedesca e così, ma qui stiamo parlando della posizione del governo. Perché il governo tedesco è sempre sembrato nel corso dell'ultimo anno, da che si è aperto il processo di consultazione sull'intera strategia commerciale dell'Unione Europea, che è un processo che è partito nell'ottobre dell'anno scorso, perché è sempre sembrata invece molto più proclive alla concessione automatica della clausola, alla posizione tedesca? Ma io penso che la sua interpretazione sia corretta, quella che lei dava prima, cioè il fatto di avere un rapporto privilegiato con la Cina e quindi un rapporto più di forza rispetto al singolo paese, all'Italia per esempio o ad altri paesi. E quindi questo rapporto gli permetterebbe probabilmente di avere delle situazioni più semplici. Poi io aggiungerei una seconda cosa, che la dimensione delle aziende italiane rispetto a quelle tedesche. Tenga presente che per noi l'inversione dell'onere della prova che lei citava prima, cioè il fatto che noi dobbiamo dimostrare che stiamo facendo dumping e non loro come è successo fino ad oggi, per un'azienda piccola è una tragedia, è impossibile da fare. È impossibile, esatto. Loro hanno dei colossi, è molto più facile che un colosso si metta di traverso rispetto alla piccola e media azienda italiana. Quindi anche questo dovrebbe aver giocato a favore del loro favore rispetto a questo riconoscimento. E poi loro sono anche, se vogliamo, più forse soggetti al fatto che la Cina per loro rappresenta più ancora che per noi un mercato importantissimo, quindi probabilmente non vogliono scontentare la Cina in termini politici anche. Ma nella bozza di risoluzione prodotta il 9 novembre scorso dalla Commissione sparisce ogni menzione delle cose che, a cui il Parlamento europeo, e che erano state riprese anche, cosa che è molto più importante, l'architettura dei poteri europei, dal Consiglio europeo che si è tenuto il 20 e 21 ottobre. Il Consiglio europeo era entrato nei dettagli, aveva detto alla Commissione: voi dovete esplicitamente tenere conto sia delle misure da concordare in caso di mancanza di rispetto alle norme, sia di un sistema di calcolo per l'eventualità di dumping di costi e prezzi che sia indipendente. Perché nella bozza di risoluzione della Commissione quello che ha stabilito il Consiglio, quindi i governi europei, qual è il comunicato finale, non c'è? Io credo che anche qui sia sono le classiche cose che ci sconcertano dell'Europa, no? Io sono un'europeista convinta, ma credo che alle volte l'Europa dia il peggio di sé. Qui di nuovo, no? Ha cercato di riconoscere di fatto una cosa che non riconosce di diritto, e quindi ha fatto questa alchimia mettendo insieme delle cose che insieme non ci stanno e bypassando quello che era stato deciso, quindi andando oltre quello che erano stati gli elementi che lei citava prima. Quindi in realtà un aborto giuridico, mi permetta di dirlo in questo modo. No, ma adesso, dopo un minuto di interruzione di servizio sul traffico, la domanda gliela faccio già, ma a questo punto che cosa, come nome delle imprese italiane, del lavoro italiano, cosa ci aspetta? Quali sono le possibilità che non si proceda automaticamente sulla risoluzione della Commissione europea? Perché quella sembra dire, in realtà, sembra in parole povere, ma l'adozione della linea annunciata da Juncker. Guardate, sì, abbiamo parlato un anno, però tutte chiacchiere, tanto è automatica, però mi risponde tra un minuto. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... la versione di Oscar. Allora, stiamo parlando di questa scadenza ormai imminente alla quale l'Europa si è impiccata sola tra la grande area dell'economia mondiale a concedere pressoché automaticamente alla Cina, dopo 15 anni dal suo ingresso nel WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, la clausola che le riconosce un'economia di mercato. Questo significa ovviamente il fatto che loro danno per assodato che non hanno più sussidi pubblici, un credito pubblico agevolato in maniera abnorme che viola le condizioni di libera concorrenza del mercato e così via, cioè rende molto più complicato arginare in termini seri, cioè secondo regole, il fatto che, come evidente gran parte allora della loro economia, è invece costruita su questo presupposto. C'è una interpretazione perché automatica della Commissione europea. Abbiamo visto che i tedeschi sono favorevoli perché pensano che tanto loro bilateralmente se la cavano. Comunque, molti di voi, la stragrande maggioranza di voi, non mi nascondo, cari ascoltatori, mi ha dato sms che dice: e poi vi stupite che noi vogliamo uscire dall'Europa, dall'euro, eccetera, eccetera, cioè essere ancora più deboli? Ecco, questa è la mia risposta. Poi vi capisco oramai, molti di voi dicono: vi stupite che vengono i nazionalisti e i sovranisti? Non so cosa dirvi, per me quella è una non risposta, essere nani con il nostro debito, però capisco che molti di voi la pensano diversamente. Alcuni dicono: ma comunque per noi male non fa, prezzi più bassi. No, questo è sbagliato. Se facciamo saltare delle regole chiare in che cos'è il libero commercio, allora davvero ha ragione che il mondo diventa una cosa esclusivamente per chi non ha diritti a costi più bassi e magari allo Stato che decide lui chi a quel punto ha i soldi per fare centinaia di milioni di tonnellate di acciaio in più e andare in tutte le parti del mondo a darlo gratis agli africani per politica di potenza. Capite? Questa cosa non funziona così. Io sono un libero mercatista, ma nell'ambito di regole precise e chiare. Però la domanda a questo punto della nostra ospite, Alice Mattioli, la vicepresidente di Confindustria, che segue queste vicende direttamente per la delega che ha, è: a questo punto cosa può avvenire di fronte a questa bozza di risoluzione? Come si fa? La si impugna? Cioè, concretamente cosa può avvenire? Io credo che in questo momento, per fortuna, si tratti ancora solo di una proposta, quindi in realtà deve essere ancora discussa e quindi chiusa, e spero che l'esperienza fatta col CETA, che è stato un altro grande, come dire, punto interrogativo. CETA, no? Lo diciamo per chi ci ascolta, è il trattato commerciale col Canada e l'Unione Europea, bloccato prima dalla Vallonia, poi la Vallonia ha fatto marcia indietro e così via. Sì, che poi permetteva un libero scambio col Canada, già tutto organizzato e finito, firmato. Beh, io credo che forse, e finalmente sia stato sbloccato come lei diceva prima, credo che questo, spero che gli serva da insegnamento per poter arrivare a una conclusione più equa un'eliminazione di questa proposta indecente, chiamiamola così, da parte della Commissione europea. Deve ancora passare quindi in Europa, nel Parlamento europeo, quindi io spero che sarà totalmente modificata. Anche perché lei diceva giustamente, io anche come lei sono per un libero mercato, ma a condizioni eque, a condizioni identiche, no? Cioè, perché se no, se giochiamo in situazioni diverse, non si può giocare insieme. No, ma soprattutto in paesi con regimi di Stato autoritari, decidono che entro 3 anni ci alluvionano di cose, possono farlo, a quel punto non abbiamo più alcuna possibilità di... No, è così, funziona così. È così, certo, e non solo, no, ma tutte le imprese chiudono indifferibilmente. Quindi lei dice, in realtà c'è la possibilità di rimanere speranzosi. Io, come tutti gli imprenditori, sono un ottimista, quindi spero che il buon senso prevalga. Noi dal canto nostro, insieme al governo italiano, stiamo facendo una forte opposizione, da subito l'abbiamo sempre fatta, sia come sistema appunto di governo che come Confindustria. Io spero che questo verrà tenuto in grande considerazione, perché veramente gli effetti sarebbero per noi catastrofici. Allora, io intanto ringrazio il nostro ospite, sentiamo qualche ascoltatore, cominciamo con Andrea da Firenze. Andrea, prego. Sì, buonasera dottor Giannino, io volevo semplicemente raccontare un fatto. Sì. Io ho un'impresa a Firenze nel settore della pelletteria e astuceria orologera. Aia, e capisco già dove va, ecco, però è giusto. Io ho da 25 anni si produce un oggetto che tiene in carica gli orologi automatici. Prima eravamo una decina in tutto il mondo, mondo occidentale tanto per intendersi, poi vabbè, si è ampliato questo mercato, il risultato che con diciamo la liberalizzazione del commercio cinese, i cinesi sono entrati in questo mercato e l'hanno letteralmente distrutto. Perché? Perché facendo comunque sia prodotti qualitativamente validi, e questo non lo nego, però con un costo di produzione nettamente diverso dal nostro. E quindi... Allora, vedi, il problema è se il costo di produzione, come lo si conta il costo di produzione? Questo mi rendo conto che hai più, dici, ma non capiamo cosa vuol dire. Me ne rendo conto. Se utilizziamo i prezzi cinesi, cioè le condizioni del risparmio interno e tutti denominati in valuta cinese, è più complicato dar loro torto per dimostrare il dumping, per una serie di ragioni tecniche su cui sorvolo, fidatevi. Bisogna farlo con dei pesi bilanciati, con una valuta benchmark terza, in dollari, in quello che volete voi. Meglio farlo in una valuta che a parità del potere d'acquisto è quella che esprime il più del mercato mondiale, anzitutto perché i mercati delle commodity eccetera sono espressi in dollari. Allora, in questo caso è vero, ci sono dei settori in cui la loro espansione ha provocato modifiche strutturali, interi settori sono saltati. Ce ne sono altri in cui il vantaggio di cui beneficiano questi settori è invece tale da porli fuori dall'effetto che devono esercitare sui nostri mercati. Allora, finché non vengono rimessi in linea quei costi degli input di produzione, dell'accesso al credito e così via, bisogna tenere le barriere alte. È molto complicato avere dei metodi, però ci sono. Il problema è che noi stiamo rinunciando unilateralmente a quei metodi, che è una veramente, mentre il mondo va al contrario, un po' singolare, e soprattutto tecnicamente secondo me non sta in piedi, è una cosa veramente, posso capire i tedeschi, ma il resto dell'Unione Europea, francesi compresi, non li capisco se adottano questa automaticità. Comunque, grazie Alice Mattioli, grazie a voi che siete stati in ascolto, continuate su Radio 24 e io alle 8:20 domani mattina ci sono, anche se c'è sciopero, e ne condivido le ragioni.